24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Bentrovati da Roberta Pellegatta a una nuova edizione di 24 ore in Europa. In apertura l'accordo raggiunto per il salvataggio di Atene. Dopo una notte di intense trattative, con l'alba a Bruxelles è arrivata l'intesa sul nuovo pacchetto di aiuti alla Grecia e si è dissolto lo spettro dell'imminente default. L'Eurogruppo ha dato il via libera ai 130 miliardi di euro di aiuti alla Grecia entro il 2014, ha fissato un nuovo target per il debito e aumentato le perdite che i creditori privati subiranno riducendo il valore nominale dei titoli in loro possesso. Un bel risultato, lo definisce il premier Mario Monti. Si tratta di un accordo molto buono anche per il presidente della BCE Mario Draghi. È molto importante che le principali forze politiche in Grecia riconoscano questo programma e supportino gli impegni che sono stati presi dal primo ministro e dal ministro delle finanze, ha aggiunto Draghi. Per il presidente dell'Eurogruppo Jean-Claude Juncker l'accordo garantisce la tenuta della Grecia nell'euro e le dà il tempo di tornare su un percorso di crescita sostenibile, mentre per il commissario UE agli affari economici Olli Rehn ora la troica UE BCE FMI rafforzerà e renderà permanente la sua presenza ad Atene. Un punto definito inderogabile da tutti i ministri partecipanti alla riunione per controllare che il piano di risanamento del paese venga portato avanti come previsto. L'obiettivo è che la Grecia arrivi nel 2020 ad un rapporto debito-PIL del 120,5%. Gli stati dell'Eurozona parteciperanno al salvataggio abbassando gli interessi sui prestiti concessi ad Atene. L'Eurogruppo si aspetta dal Fondo Monetario Internazionale una partecipazione significativa al piano di aiuti per la Grecia e la decisione del board dell'FMI arriverà a marzo, come ha confermato il direttore generale del fondo Christine Lagarde. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ma come si è arrivati a questo accordo? Sentiamo. Nell'ottobre del 2009 una folla festante di suoi sostenitori accoglie la vittoria e poi l'arrivo in Parlamento di George Papandreou, socialista, vincitore delle elezioni in Grecia, figlio e nipote di ex primi ministri. L'attore però di pessime notizie. Il precedente esecutivo, quello del conservatore Kostas Karamanlis, ha truccato i conti. La previsione di rapporto tra deficit e PIL è indicata per quell'anno al 3,7%. Papandreou la ritocca, per così dire, stimando un 12,7 alla fine dell'anno e al 15,5. A dicembre del 2009 i tagli di rating, mentre da Europa e Fondo Monetario Internazionale inizia a filtrare l'idea di dover aiutare Atene. Bisogna arrivare al maggio del 2010, il momento nel quale, al termine di un difficile negoziato, la Grecia ottiene 110 miliardi in cambio di promesse di un piano di austerity da 28 e privatizzazioni per 50. Non basta, il bilancio greco è irrimediabilmente compromesso, mentre i leader europei mettono in scena un balletto di dichiarazioni, spesso a mercati aperti, spesso in contraddizione tra loro. E se c'è una cosa che ai mercati non piace è l'incertezza. Alla piazza quello che non piace invece è l'austerity, i tagli agli stipendi pubblici, la stretta fiscale. È sempre il maggio del 2010 quando in una giornata di guerriglia una Molotov viene lanciata sulla filiale di una banca. L'edificio diventa una trappola, 3 persone perdono la vita. Le proteste costellano tutto questo percorso accidentato, connotano l'estate dell'anno scorso, quando ci si rende conto che Atene non ce la fa, che c'è bisogno di altre risorse, fanno da cornice ai momenti nei quali Papandreou decide di dimettersi, lasciando la guida del paese all'ex banchiere centrale Lucas Papademos. Sono il corollario anche delle decisioni di queste ore. Simone Spezia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Se i politici tirano il fiato, i greci continuano a manifestare. Ieri mattina sono scesi in piazza i dipendenti pubblici. Sentiamo a riguardo Vicky Markaki, cronista greca, al microfono di Gigi Donelli. La giornalista commenta anche il gesto del sindaco di Cava dei Tirreni, che al grido di "siamo tutti greci" ha deciso di devolvere il suo stipendio al popolo greco. E la sensazione è quella che si tira un sospiro di sollievo oppure no? Per i politici sì, per la gente comune c'è un attimo di riassestamento, stanno aspettando a capire che cosa significa tutto questo per la vita di ogni giorno, la vita di ogni giorno che è diventata molto pesante. Per quel che riguarda la tua domanda, per l'Italia aveva già pensato Celentano, allora magari il sindaco poteva già pensare alla Grecia, il sindaco lo amiamo. Devo dire che in Grecia il suo gesto ha avuto un grande riscontro, non certo per i soldi, certo, ma perché quel slogan di "siamo tutti greci", per ricordare semplicemente che non siamo solo quelli che hanno fregato l'Europa, non siamo solo questi che hanno fregato i soldi, ma siamo anche questi che qualcosa hanno dato a quell'idea dell'Europa. I greci ce l'hanno principalmente con i loro politici, forse ce l'hanno anche con loro stessi, che hanno tollerato, hanno votato e hanno creato questa classe politica. Fatto sta che quelli sono. Sentirsi commissariati nella propria democrazia è una cosa molto molto pesante. Adesso da Bruxelles il commento sull'accordo raggiunto di Adriana Cerretelli del Sole 24 Ore. Sicuramente è una vittoria, nel senso che si è chiusa una falla, o perlomeno si sono approntati i mezzi per chiudere questa falla. Dopodiché il futuro resta un punto interrogativo, nel senso che questa vicenda greca sta, per così dire, divorando l'Europa. È diventato un problema politico, ma anche un problema economico-finanziario per gli altri partner. E quindi a questo punto il salvataggio della Grecia, questo secondo salvataggio, deve assolutamente funzionare, perché se non dovesse, e purtroppo i rischi ci sono che non funzioni, una uscita della Grecia o un default della Grecia non rimarrebbe un episodio isolato, avrebbe di nuovo degli effetti contagio. È interesse dell'Europa e della Germania per prima a fare di tutto per non esasperare, diciamo, questa cura di sacrificio e di rigore e non creare dei sentimenti, come purtroppo stanno nascendo in Europa, antitedeschi, che sarebbero appunto la via maestra per distruggere l'Europa. Sempre da Bruxelles sentiamo le parole di Mario Monti al termine della lunga riunione dell'Ecofin. Promuove l'accordo sugli aiuti alla Grecia, guarda ad una nuova fase di rilancio della crescita. Parla al termine dell'Ecofin il presidente del Consiglio Mario Monti. Il premier parte dall'attualità, dal nuovo intervento europeo in favore di Atene e spiega. È un risultato importante anche perché toglie rischi immediati di contagio. Monti ripercorre quindi i suoi primi 100 giorni da quando alla guida del governo si presentò per la prima volta a Bruxelles e ricorda. Siamo certamente meno vicini al baratro di quanto lo fossimo 3 mesi fa e credo che questo sia stato percepito dai mercati e percepito dal mondo internazionale. L'incoraggiamento che Francia, Germania, Unione Europea e Stati Uniti ci hanno riservato hanno avuto per noi grande importanza psicologica, spiega Monti. Quanto ai prossimi passi del governo italiano, il premier guarda crescita, occupazione e welfare ed in tal senso va visto il decreto sulla semplificazione fiscale in arrivo venerdì al Consiglio dei Ministri, un decreto con importanti novità. Potremmo forse venerdì istituire un fondo nel quale far affluire i ricavi dalla lotta all'evasione. I fondi dalla lotta all'evasione, dice Monti, saranno usati anche per sgravi fiscali ed incentivi per i redditi più disagiati, cosa che potrebbe avvenire anche prima del 2014. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. L'effetto Grecia però non si è fatto sentire sulle borse europee. Nell'accordo sulla Grecia, nel Wall Street, tornata sopra i 13.000 punti ai massimi dal maggio 2008, sono riusciti a scaldare i listini europei. Milano ha chiuso in leggero calo, col FTSE MIB a meno 0,08% e il FTSE Share a meno 0,02%. La giornata è stata segnata dalla debolezza dei due maggiori gruppi bancari, Intesa San Paolo e Unicredit. Intesa San Paolo in particolare ha ceduto il 2,4% dopo che il presidente del consiglio di gestione, Andrea Beltratti, si è dimostrato molto cauto sul dividendo, invitando i soci a guardare a lungo periodo. Altra giornata da ricordare invece per Finmeccanica, che ha guadagnato l'11,8%. Questa volta a spingere il titolo non sono state le maxi commesse, ma la possibilità che il colosso della difesa riesca a trovare una soluzione per la controllata Ansaldo Breda, che negli ultimi 6 anni ha accumulato perdite per 1 miliardo di euro. Guido Maurino, da Radio Corp, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Voltiamo pagina. Il ministro delle politiche europee Enzo Moavero ha confermato al Consiglio Competitività la disponibilità della città di Milano a ospitare la futura sede della Corte Unitaria dei Brevetti. Noi pensiamo, ha sottolineato il ministro, che poiché di fronte a questa Corte dovranno comunque apparire tutti i titolari di brevetti europei, è importante che per gli italiani questa Corte non sia una Corte straniera. Caso Baila. La BBC vince il ricorso contro Mediaset ed Endemol. Il Tribunale di Roma ha dato ragione alla TV britannica, ingiungendo a Mediaset di cessare ogni utilizzo del format messicano Bailando per un sueño, troppo simile a Strictly Come Dancing, acquistato anche dalla Rai. I giudici hanno fissato una penale di 500.000 euro per ogni ulteriore violazione. Andiamo al cinema in chiusura. In Europa lieve calo dopo 2 anni record. Gli spettatori sono diventati 1.188.000.000 rispetto al 1.195.000.000 del 2010, con una flessione dello 0,6%. A presentare il decremento più sensibile l'Europa centro-orientale e il bacino del Mediterraneo. La Francia continua a crescere, consolidando la sua posizione di primo mercato cinematografico europeo, arrivando a 215 milioni di presenze. In crescita anche il Regno Unito e la Germania. Col segno meno invece l'Italia, che registra una variazione stimata intorno al meno 8%, in decrescita anche Spagna e Russia. Ed è tutto per questo appuntamento con 24 ore in Europa. Grazie a Daniele Teruzzi in regia, a voi per l'ascolto. Un saluto da Roberta Pellegatta. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.